Io non so se la Juve mi ha cambiato. Mia moglie mi dice sono sempre la stessa testa di cazzo di prima. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Noi in questo momento non abbiamo la capacità di reggere quando ci mancano comunque quattro giocatori. Non è semplice, siamo lì in testa alla classifica, però stiamo raschiando il fondo del barile, si dice a casa mia. Che cosa manca per essere da scudetto? Ma in questo momento, devo essere sincero, poco. Ho bisogno dell'intera rosa, devo cercare di utilizzare tutti i giocatori sperando che tutti siano al 100%. Mi sento bene, solo che il mister vuole stare attento, mi sa che pensa a mia età, però a mia età non c'è problema. Il cervello è sempre uguale, solo che il fisico deve seguire. Ci dà speranza il fatto che abbiamo fatto 48 punti e la sensazione che possiamo migliorare ancora. Poi io non mi lascio influenzare dagli ultimi 20 minuti di partita, perché noi abbiamo fatto 65 minuti di buon calcio. Poi venire qui e vincere senza sofferenza penso che non sia riuscito quasi mai a nessuno. Un grande problema, più un problema, ma adesso Zaniolo deve pensare a recuperare veloce. Che possiamo fare in questo momento? Siamo tristi per Zaniolo, ma domani è oltre giorno. L'audioschiattone Gianmarco Ferronato, buongiorno per Luigi Pardo. Ciao. Ciao, torni a tiki-takeggiare, no? Stai per... Stasera. Beh sì, no, adesso tiki-takeggiamo su Radio 24 con Vincenzo Pincorini, che saluto. Ciao, prof. A tutti voi, ragazzi. Ciao. Senti, ciao. Usciamo dal bosco del weekend tra strilli di VAR, ovviamente poi ne parleremo, anzi parleranno anche gli ascoltatori, 349-238-6666, WhatsApp vocali, i miei preferiti. E urla di dolore, che sono quelle di Zaniolo, ma anche di Demiral, perché la notizia di oggi certamente hanno confermato che anche per Demiral, esattamente come per Zaniolo, rottura del crociato, un interessamento del menisco, è praticamente per stagione finita, no Vincenzo? Stagione sicuramente. Ad esempio tutti si parla sempre di recuperi veloci, un talento come Nicolò, io penso che abbia bisogno di un recupero vero, fatto di tempi regolari, e quindi per salvaguardare un talento così grande sicuramente dobbiamo pensare che anche la scadenza degli europei insomma diventa perlomeno da punto interrogativo, ecco. Anche se ai mondiali del 94 convocammo all'ultimo momento Nicola Berti, che con dei punti interrogativi perché veniva da un crociato, e che recuperò con dei tempi veloci e fu il giocatore che giocò più minuti di tutti poi. C'è anche l'episodio del 94 di Baresi, operato al menisco in America, e poi siamo ancora secondi in classifica dopo Zubrighe. tu che ne pensi, Pierluigi? Si recupera con calma? Ma sì, allora nel caso di Zaniolo, ma anche in quello di Demiral. Ora su Demiral ieri sera la situazione sembrava meno grave, invece purtroppo no. la diagnosi è la stessa, insomma è proprio abbastanza curiosa, no? La percezione diversa che c'era ieri sera dei due infortuni, uno quasi voleva rientrare in campo, l'altro uscito fra le lacrime, però insomma la sostanza purtroppo è la stessa, e facciamo un grande in bocca al lupo a tutti e due, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda Zaniolo, io credo che siamo di fronte a un grande talento, siamo di fronte che le cose che si possono dire in questo momento sono banali e non possono fare nessuna forma di consolazione. Credo che la cosa migliore da fare sia prendersela con calma, perché comunque è chiaro che l'europeo è un'ipotesi molto suggestiva, però bisogna anche capire ovviamente come arrivare eventualmente all'europeo. Non credo che ci siano i margini, non lo so, poi siamo piccolini, ma insomma, quindi io penso che in questo momento il ragazzo debba stare tranquillo, debba stare sereno, debba pensare che è un ragazzo molto giovane, debba incassare tutto l'affetto possibile di tutta la comunità degli appassionati di calcio. Certo. Ovviamente romanisti, non romanisti, come nel caso di Demiral, juventini, non juventini, non c'entra niente, siamo tutti tifosi di questi ragazzi, e poi il tempo è dalla sua parte, il tempo e il talento è dalla sua parte. Purtroppo della vita dei grandi professionisti quasi tutti hanno un infortunio grave, c'è chi capita prima, c'è chi capita dopo. E, ripeto, non c'è nulla di intelligentemente consolatorio che si possa dire in questa situazione della vita, e bisogna reagire e andare avanti. Come dice, guarda, aggiungo una cosa io: le lacrime sincere per forza di Nicolò devono far pensare che siamo ancora veramente a contatto con un ragazzo che ha visto sfuggirgli i suoi sogni in quel momento lì, chissà cosa ha pensato, ma è proprio per dire, ci deve far sottolineare quanto questo ragazzo ancora è giovane, quanto ancora c'ha davanti, perché veramente parliamo di un talento che secondo me è di quelli veramente da podio alto. Beh, d'altra parte, sì, certamente, d'altra parte, prof, ci sono ovviamente tornate alla mente immagini di Ronaldo, di altri infortuni gravi che abbiamo visto sul campo, che scioccano sempre un po'. Piuttosto ho una curiosità da levarmi sulle parole di Perotti, che vi faccio sentire. Onestamente l'Olimpico non è mai stato sempre bene, sempre un campo che non ho, secondo me non è all'altezza della Serie A, sempre c'è qualche buco, c'è qualche, non è un buon campo. Sicuramente questo ha fatto che questi due infortuni siano così difficili, duri. Allora, due cose. La prima, non ricordo un'altra situazione, un'altra volta in cui si è giocato per due volte in 24 ore sullo stesso campo. In questo caso è accaduto, hanno giocato la Lazio sabato sera e la Roma domenica sera. Non succede mai, è successo in questo caso perché si è stabilito che l'Olimpico deve essere libero nell'ultima giornata di campionato per essere apparecchiato per gli europei. Dunque, a inizio stagione già si sapeva, le due romane devono giocare in trasferta l'ultima partita. Però due in casa, 24 ore di distanza, non me le ricordo. Questo è un dato. Altro dato, la Roma ha subito 19 infortuni di questo tipo negli ultimi 6 anni. Strootman, eccetera, eccetera. È inutile elencarli tutti, però il dato è questo. Vincenzo, c'entra qualcosa l'aver giocato a 24 ore di distanza e questi infortuni seriali della Roma possono, si può trovare un denominatore comune oppure casualità? Ma io penso che ci sia una grossa percentuale di casualità, perché su quello per noi nel mestiere rimane sempre l'infortunio muscolare un po' la cartina al tornasole, sì, di determinate situazioni. Quello proprio così del ginocchio, il crociato, sono sicuramente legati anche ieri alla fine di questi 50 metri di Nicolò, dico 50 occhio, ecco, dove lui si era dato, che quando lui è una potenza impressionante, anche uno scontro non al massimo può essere, a seconda della posizione, determinante. Io da vecchio, tra virgolette, sono a dire che sicuramente una volta c'era un calcio diverso, ma questi infortuni erano veramente, io quando ho incominciato i primi anni 80 ne avevi uno ogni diversi anni. Probabilmente anche io che dico sempre, noi anche come nazionali giovanili vediamo questi giovani crescere fin troppo velocemente, ecco, tutti questi giovani che crescono dovendo vincere le partite, i tornei già a 10, 11, 12, 13 anni, sicuramente fanno una strada che è accorciata, più veloce, che ti porta prima al successo, però gli mancano nello zaino delle conoscenze, dei momenti di crescita particolari che potrebbero sicuramente rendere questi giocatori altrettanto forti ma meno fragili. Questo discorso riguarda che mio amico Pardo, che ha problemi al ginocchio ma sono dovuti all'età. Cioè, è molto giovane. Trasmissioni che fa di cucina, dai. Sì, no, ma è molto giovane. No, è molto giovane, quindi sta crescendo e viene sottoposto a grandi stress. No, quindi mi sono fatto un crociato anni fa, ma col basket. Ma niente. Diciamo, il basket italiano non si è perso nulla. No, credo che il ragionamento sia molto giusto e riguarda tutto il mondo del calcio, e non riguarda soltanto l'Italia, riguarda il fatto che si gioca molto di più, che c'è un livello di agonismo che riguarda tutti, che c'è un livello di preparazione e di crescita che è molto più veloce, che i carichi di lavoro sono superiori rispetto al passato, e poi comunque alla fine il corpo umano è quello, quindi è ovvio che oggi si va a 300 all'ora e 20 anni fa, 30 anni fa si andava a 150, e quindi è anche più facile, il ragionamento non fa una piega. Quanto al discorso delle due partite in 24 ore, io credo che ci sia una componente di casualità, certo non aiuta, e oggi siamo tutti lì a pensare che probabilmente quel terreno fosse stato troppo sollecitato. Le parole di Perotti sono un ulteriore campanello, no, da questo punto di vista. Io credo che sia un mix, cioè che ci siano degli elementi che sicuramente purtroppo hanno aumentato la predisposizione o la probabilità dell'infortunio, sì. Poi credo che ci sia una componente che ovviamente è una componente casuale, sì. Di destino, che riguarda tutti e due questi. Che io sinceramente credo sia preponderante, che perché Pierluigi molto spesso si gioca, non so, la domenica e poi il martedì in Coppa, quindi non è un giorno in più, un giorno in meno che ti fa sistemare il campo, quindi è semplicemente una suggestione. Poi c'è questa storia che è un unicum di due squadre che giocano sullo stesso campo a distanza di pochissimo. No, più che altro volevo approfittare della presenza di Vincenzo, perché io, da anziano quale sono, ho una suggestione invece. Certe volte, vedendo giocare l'Atalanta, mi ricorda il Milan di Sacchi. È chiaro che si presta a qualunque tipo di paragone positivo, dall'Olanda del 74 al Brasile di Pelé in questo momento l'Atalanta, però come intensità fisica, con quella recupero di palla altissimo, eccetera, e quella prepotenza fisica, a me un po' lo ricorda quel Milan lì, Vincenzo. È una squadra, l'Atalanta, che proprio dispensa energia, ecco. E io credo anche, noi siamo un po', per dire, quando parliamo con i giocatori riusciamo a capire un po' come si allenano le squadre, tutto quanto, quindi è chiaro che dietro al gioco dell'Atalanta c'è molto che viene dall'allenamento, molto dall'intensità che sicuramente va ricercata giorno per giorno. Ci sono 11 giocatori tutti quanti sempre, per dire, nel meccanismo del gioco. È una squadra che tra l'altro è la vetrina di una società che lavora allo stesso modo da tempo, con tanti giocatori che da noi vengono chiamati nelle nazionali, quindi, per dire, è tutto un sistema, è tutto un movimento di cui la prima squadra è veramente la vetrina. A me piace vedere che società come l'Atalanta abbiano poi dei successi, sia nei giovani, che perché è un modo di fare calcio legato a delle progettualità, e questo, secondo me, per dire, un po' tutti dobbiamo tornare a pensarlo così, questo calcio. Sì, quante volte ci sentiamo dire, Pier, da ogni allenatore, no, ma mi interessa il progetto, eccetera, che poi normalmente è aria fritta, però non sarà così casuale. Ha raccontato l'Atalanta l'altra sera, l'hai raccontata diverse volte negli ultimi tempi, tra Champions e campionato, ovviamente. Però abbiamo detto, guarda Gasperini com'è bravo proprio a padroneggiare sulla punta delle dita questa squadra. Lo stesso si dice di Inzaghi, ebbene, ci sono due squadre progettuali, sono l'Atalanta e la Lazio, niente accade per caso. Assolutamente, sono due squadre che hanno cambiato pochissimo, sono due società che hanno venduto pochissimo, e quando l'hanno fatto molto bene. Il caso di Gasperini, lo voglio ricordare, l'inizio dell'esperienza all'Atalanta di Gasperini non è fortunatissimo, lui parte male, la società gli dà forza, gli dà fiducia, e adesso i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma quel primo mese io penso che lui non se lo sia dimenticato, quindi poi quando si parla di progetto si parla anche di questo. Quando hai un presidente che crede in te, che ti sa aspettare, che ti sa difendere nel momento difficile, certamente questo ti dà un vantaggio e ti consente poi di esprimere il tuo talento e le tue qualità. La Lazio è un caso assolutamente virtuoso, io lo dico sempre da tempo, la Lazio non farà l'acquisto da 100 milioni di euro, è una squadra che vende pochissimo, che vende soltanto quando proprio è necessario, e vende molto bene. Ha creduto in Inzaghi, è stata secondo me un po' fortunata in quella famosa estate, ti ricordi quando chiamavamo lo Tito? Certo. C'era tutto il giallo di Bielsa, col senno di poi secondo me è stata un po' fortunata, perché difficilmente Bielsa, con tutto il rispetto e tutta la sua sacralità, sarebbe riuscito a fare quello che di straordinario sta facendo Inzaghi, che però aveva già mostrato dai segnali già dall'inizio della sua esperienza, dei segnali di grande pragmatismo, di grande intelligenza. Per cui è una storia bellissima, è una storia di un grande club che adesso vuole continuare a sognare, ma ripeto, non è un miracolo. Una volta si diceva il miracolo, non è un miracolo, è programmazione, è pazienza, è sacrificio, sono investimenti. No, ma poi anche la forza di resistere al mercato, ai venti del mercato, di tenere i giocatori, cose che accomunano la Lazio, in parte anche l'Atalanta. Milinkovic-Savic, lo ripetiamo spesso, insomma, che lo Tito abbia avuto un'offerta in tripla cifra prima del mondiale, questo è abbastanza risaputo, no? E quindi poi lì, così come secondo me posso capire benissimo i tifosi della Lazio in qualche circostanza gli rimproverano di non aver fatto poi magari l'acquisto definitivo in certi momenti, però bisogna anche riconoscere che quando c'è stata la possibilità di vendere dei giocatori a certe cifre non l'ha fatto. Mm-hmm. Quindi questo significa rinunciare comunque a dei soldi. No, sì. è una gestione in questo momento molto virtuosa. Poi c'è sia nel caso che della Lazio che dell'Atalanta anche questo famoso elemento della catena corta, quindi nel caso della Lazio chiaramente c'è l'ufficio comunicazione che ragiona con l'area tecnica, c'è solo un gruppo di persone, relativamente poche persone, molto unite, che però si dividono perfettamente i ruoli. Spesso nelle strutture che si vanno consolidando delle grandi società italiane, soprattutto quelle con dei capitali che arrivano da fuori, certo, è abbastanza ovvio, ma è normale che ci sia un po' di scollamento sui ruoli, no? Un po' di distanza. Atalanta, da questo punto di vista, sono in questo momento un modello invece perfettamente funzionante. Tradizionale, sicuramente. Tradizionale, certo. No, che poi ne parlavamo anche l'altro giorno con Roncone, no? La Roma è un modello diametralmente opposto, però è pure un modello di successo, gestiti in maniera opposta, la continuità della Roma. Poi sai, il risultato fa molto opinione, no? In questo momento magari il tifoso della Roma è un po' depresso, ma la continuità al vertice della Roma in questi anni non è in discussione. È chiaro poi che il tifoso vuole vincere e magari avrebbe barattato, non lo so, una semifinale di Champions League o una serie di partecipazioni in Champions League con due Coppa Italia o non so cos'altro, con un trofeo. Questo non lo so, il dibattito è aperto e il tifoso ovviamente ha il suo punto di vista, però onestamente se noi guardiamo quello che ha fatto la Roma in questi anni non è trascurabile. Roma e Napoli in questi anni si sono inserite nel vuoto delle due milanesi, hanno sfidato la Juve, hanno veramente gettato la famosa chiaro, continuità contro l'ostacolo, e sono andate tutte e due vicine a conquistare il campionato e hanno fatto tantissimi piazzamenti di Champions, quindi non è che adesso improvvisamente sono cose da buttar via, però è chiaro che il momento condiziona la contingenza è quella. Fammi chiedere un'ultima cosa a Vincenzo Pincolini, riguarda Villarzilla Power, cioè il vintage di moda. Cristiano Ronaldo se ne è parlato mille volte, ha 34 anni ma ne dimostra 23, 24, 25, 12, non so. Ibrahimovic ne ha 38, però dice sì, vabbè, fisico, cioè, Pioli che si preoccupa, ma chi se ne frega, non so, problemi suoi, l'età, basta che le gambe facciano quello che dice il cervello. Ma poi posso andare avanti finché vuoi, LeBron James, certo, a 34, cioè nello sport di altissimo livello tu parti, abbiamo Pierluigi, l'NBA, tanta gente, per dire, di età avanzatissima, per dire, nella pallavolo, per dire, sono reduce, ho visto la Coppa del Mondo di sci a Campiglio, anche lì ci sono sciatori tranquillamente 37-38 anni che sul filo dei centesimi si giocano le vittorie o i piazzamenti, quindi sicuramente adesso chi ha la fortuna di non avere troppi infortuni e chi sa seminare prima, quindi continuandosi ad allenare nel modo giusto, per dire, vivendo nel modo giusto la sua professione di sportivo, ormai parlare di 37-38-39, per dire, sono dei confini, ma che possono essere raggiunti, e sono raggiunti molto più facilmente che non 20 anni fa. Ecco. Sì, d'altra parte ci sono quelli che hanno 20 anni però ne dimostrano 96, quindi... Sì, cioè io sono stato in un mondo, quello russo, ucraino, dove purtroppo determinati problemi, come ad esempio l'alcol, fanno sì che le carriere si accorcino proprio in modo netto. Quindi è chiaro che c'è, come dicevano i vecchi allenatori, c'è un allenamento sul campo e un allenamento invisibile, e tu devi mettere insieme tutte le due cose per far sì che la carriera sia lunga, perché poi carriera lunga vuol dire per i giocatori guadagnare anche molto di più, quindi è chiaro. Lì, se non altro, è un bello stimolo. Chiaro, grazie Vincenzo, a presto, ti abbraccio, buona giornata a voi, ciao, buona trasmissione, ciao Vincenzo, ciao, Pincolini, ciao. Saluto Ciccio Valenti, ciao Ciccio, ciao, anch'io ne dimostro 30. sono fatti i miei 53 davanti no, a un tu buffet, ne hai 30. Credetemi. Tu ne hai sì, 30. Esatto. Ti stai preparando per stasera? A proposito, stasera andiamo a suonare, eh? Con la cena è confermato. Cena e piano bar con Pardo è confermato. Cena no? E piano bar. Sì, cena va bene. Piano bar, cioè. Anche l'after party fino all'alba. Certo, è tutto certo, confermato. Certo. Ti faccio sentire una cosa, Ciccio. È incomprensibile. No, mi dispiace anche per chi era al VAR, per gli arbitri stessi. Però queste cose tolgono. Lo vedono tutti e non riescono a vederlo ancora. Gasp, io veramente te lo dico da tifoso prima che da interista. Tu sei un grandissimo allenatore, ma per quello che hai detto nel post partita e quello che non hai detto a Bergamo, Atalanta-Juventus, dovresti vergognarti. Dopo quella partita là, che è successo di tutto, Gasperini va davanti ai microfoni quasi quasi a chiedere lui scusa. Ovviamente poi dopo ieri sera Gasperini, ma ero sicuro, andate ai microfoni a piangere. Non mi fate sentire queste cose, non me le fate sentire. Spingino su, no, non esiste, non esiste. Quello cade, cade e va ad abbracciare, che gli va a fare un massaggio. Ragazzi, quello VAR, non VAR, non penso ci sia un interista, uno che dica che non è rigore, perché altrimenti qua è finito tutto. Eh beh, è chiaro, caro Ciccio, il trionfo del popolo del web e in parte anche della dietrologia più oscurantista, eh? Beh, sono 48 ore che si sta parlando di questo, mi permette di dire che tutti i problemi possono essere risolti se si dà veramente grande legittimità al VAR, a prescindere di quello che possa essere successo. Io non ho avuto problemi a fare un video dicendo che anche secondo me è rigore. Ciò non toglie che, caro Pottorini, o si va a vedere il VAR sempre, e secondo me bisogna andare a vedere il VAR sempre, perché io ripeto sempre, vorrei viaggiare con un pilota che ha voglia di consultare la torre di controllo per azzeccare la pizza, e secondo me il VAR è una torre di controllo, o se no si fa casual e questo non va bene. Se tu sai benissimo che stasera ne parlerete a lungo a Tiki Taka, non ho dubbi, quindi, sì, quindi preparati agli attacchi frontali, Ciccio. Beh, possono anche, però mi permetto di dire, la mia posizione è VAR, a prescindere che uno possa essere interista, milanista, juventino, napoletano, romanista. Proprio questa non è una cosa, secondo me, assolutamente secondaria. Se c'è un mezzo che ti permette di dare massima regolarità, o maggiore regolarità alla situazione, ma che ben venga sempre, comunque, anche se poi può essere che ti possa sfavorire, come per l'amor di Dio. Però nei casi dubbi si va a controllare. Ho molto apprezzato il video di Ciccio di ieri, perché è una dimostrazione di onestà intellettuale e ovviamente non mi sorprende. È esattamente quello che dovrebbe essere, che proviamo a fare. Poi è ovvio che soprattutto sui social network c'è un continuo, no, di gente che si insulta a vicenda. Io continuo a non vedere in questo campionato, l'ho detto ieri, lo ripeterò stasera, continuo a non vedere un vento. Lo stesso arbitraggio di Inter-Atalanta in qualche modo lo dimostra, perché il rigore che si può dare sicuramente, c'è la spinta di Bastoni commette un'ingenuità, ma non è il rigore più clamoroso del mondo. E allora, se ci fosse stato il complotto, ecco, quel rigore lì non l'avrebbe dato, no? Quindi io a queste cose proprio non ci credo minimamente, e consai con Graziano Cesari, valutiamo il campionato nel suo complesso. Mi sembra veramente di poter dire che gli errori purtroppo sono tanti, ma non c'è una direzione precisa di un eventuale evento, e quindi invece ci deve essere, secondo me, lo stimolo al mondo arbitrale, come diceva Ciccio, a non aver paura del VAR, a non aver paura dello strumento tecnologico che può risolvere, certo, dei problemi. E l'altro ieri c'era un grande arbitro e un grande VAR, e che ha sbagliato. L'arbitro non poi tanto, il VAR ha sbagliato, l'ha detto anche Nicky stamattina, cioè ha sbagliato, che cosa vogliamo fare? Per anni, mi permetto di ricordare, ho commentato era il poker sportivo, una delle discipline tra virgolette più cruente, cioè nel senso dove sono ovviamente in palio premi veri, iscrizioni vere, e ha senso quando ci sono delle regole precise. Se non ci sono delle regole precise, veramente vale tutto, cioè proprio si toglie il meccanismo dello sport come lo special effort di cui ha avuto origine. Non ha senso, per me non ha senso. Se nella discesa libera si può assegnare una medaglia olimpica per un centesimo con gente che va a 130 all'ora, io non vedo onestamente come possa non essere consultabile un mezzo in più dato direttamente a dato agli arbitri, dato come occasione loro per poter essere anche più tranquilli. Certo. Ho sempre sostenuto che di fronte al VAR non ha una, cioè non fa più un errore, fa una scelta. Non sto parlando di una fede, però fai una scelta. La scelta può essere anche: io non ti considero caro mezzo tecnico. Certo. Ma questo secondo me è assolutamente follia. Senti una cosa, invece, stai raschiando insieme a Conte il fondo del barile. No, perché la sensazione è che, ma così superficiale, che l'Inter veramente si avvicina al limite. Questa Inter avrebbe bisogno di alzare quel limite col mercato. La Juventus, che ieri sera a me non è piaciuta, che ne dica Sarri, nemmeno nei primi, partita condizionata al 2-0, però non mi è piaciuta nemmeno nei primi 65 minuti, come dice Sarri. Una Juventus così così non si avvicina al limite. Beh, sicuramente, ma secondo me l'abbiamo visto purtroppo, noi interisti l'abbiamo visto nella partita andata Inter-Juventus, quando vengono fatti due cambi, uno per parte, dal lato del Travestino, che con tutto il bene che si può volere probabilmente a volte non riesce a cambiare le sorti dell'incontro, l'altra parte di Treguaina la mette dentro. Conte ai tempi brontolò, poi sembra che di brontolata sia diminuita, penso che abbia avuto delle certezze, delle sicurezze, che sia stato rassicurato per quello che è l'impegno della società, per quello che è l'impegno dei dirigenti. Poi vedremo, ciò non toglie che secondo io se becco un interista che non è contento quest'anno e che se non si ricorda che a dicembre, gennaio era finito praticamente tutto, cioè vedevamo partite dove io personalmente mi addormentavo. Quest'anno mi auguro che veramente sia così, cioè alla fine hai fatto 4 punti in una trasferta che ritengo ancora difficile come quella di Napoli, perché comunque sia c'era un fatto emotivo, arrivava Gattuso, insomma sei andato e hai vinto, e un pareggio con la squadra che in questo momento mi sembra che sia forse la migliore nell'esprimere il gioco del calcio. Va bene. Morale, quanti ne servono di giocatori nuovi? Ma guarda, forse per me non problemi, cioè forse per me se si vogliono mettere tutti in fila e venire sono contento. Okay. Però penso che allora intanto ci vuole il reintegro totale da parte di Barella, poi c'è stata la squalifica e quindi l'abbiamo perso. Ciò non toglie che secondo me il centrocampo, quando c'è Brozovic, Sensi e Barella, devi averlo come unità di misura, quindi devi entrare in determinati giocatori che Antonio Conte vuole, e mi sembra che lui abbia dato delle indicazioni abbastanza precise. Mi auguro che ci possano essere almeno uno o due giocatori. Poi c'è il problema della fascia sinistra, che è un problema che verrà risolto con Ashley Young. Io credo sarà un acquisto di questa settimana. Quanto al resto è vitale, tutto quanto gira intorno all'Inter lo scopriamo grazie a Ciccio subito dopo la borsa, perché tutte le strade del mercato in questo momento portano a Barcellona. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo e insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi, dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Un'auto elettrica! La sigla di un'auto. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42 All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Maestro SD One, aiutami! Le reti della mia azienda stanno passando al lato oscuro. Non temere, ecco la tua arma. La fibra intelligente di Iridios. È intelligente perché ha sempre tutto sotto controllo. Accessi, cloud, applicazioni. Si integra con tutte le tecnologie. ADSL, fibra, wireless di qualunque operatore. E poi si attiva in un laser. Volevo dire in un lampo. Vai su fibraintelligente.it. Fibra intelligente, la soluzione SD One di Iridios, il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Tutti convocati. VAR o non VAR, l'Atalanta ha avuto la possibilità di vincerla la partita. Purtroppo ha sbagliato il rigore, non è colpa dell'Inter se ha sbagliato il rigore. In un paese come l'Italia VAR o non VAR, cioè le immagini parlano chiaro, quando c'è qualcosa che non è corretto è perché c'è la malafede, insomma il paese ci ha insegnato questo. La domanda del secolo è: l'Atalanta come fa a giocare così bene? Come fa a correre così tanto? E chi è il preparatore atletico dell'Atalanta? Un mago? Il popolo dei WhatsApp 349-238-6666. Pierluigi Pardo naturalmente c'è e c'è anche Filippo Maria Ricci. Buongiorno. Buon pomeriggio. Dunque, la cronaca di ieri insegna che se la tua vita dipendesse da una finale, l'allenatore sarebbe Zinedine Zidane. Sì, non ne sbaglia una. Abbiamo azzeccato anche i tempi dell'intervento. Bravissimo, perfetto, contavo su di te. 9 su 9, cioè non ne ha ancora persa una. Per la legge dei grandi numeri, vuoi vedere che quando dipende, la nostra vita sarà legata a una finale, track. Sì, anche in Champions non è mai stato eliminato ancora, quindi anche quella non è male. No, però intanto si porta a casa la Supercoppa spagnola e via. Sì, così, interessante, insomma, poi ai rigori, come sempre, ieri appunto, man mano che passavano i minuti, poi controllavo, sì, praticamente le ultime 4 finali non sono mai state decise al 90esimo, insomma, si va sempre ai supplementari e a volte anche ai rigori. Tra queste due squadre c'è grande equilibrio e ieri sera alla fine hanno deciso gli errori dal dischetto dell'Atletico. Dopo questa, qui c'è stata grande, come si può dire, si parla tanto, si sottolinea l'intervento di Fede Valverde su Morata lanciato a rete, no? L'ha falciato, espulso, e Luis Enrique, che doveva scegliere il man of the match, gliel'ha dato a lui. E anche Simeone ha detto giusto così, ha deciso la partita, ha fatto quello che doveva fare, un sacrificio necessario, no? E lui poi ha chiesto scusa, è stato divertente, è stato bravo lui, perché poi ovviamente essendo man of the match è dovuto andare in conferenza, certo, da espulso, ha chiesto scusa, ha detto no, non è bello, non si è, però era l'unica cosa che potevo fare. Interessante questo aspetto, comunque il sacrificio della pedina, no? Sì. Poi prendi nota, Pierluigi, per la prossima partita di Champions, quando dovete leggere il man of the match, valgono anche quelli espulsi. Nessun problema. Sì, però insomma, diciamo, è una situazione chiaramente peculiare, particolare, però ci sta, cioè, è stata una scelta strategicamente, tatticamente decisiva quella. Poi è ovvio che non è esattamente il gesto tecnico, no? Più limpido, esatto. No, io ho scelto Courtois come migliore, poi è un po' banale se volete, però insomma ha parato il rigore decisivo, ha fatto 4-5 parate buone, poi il rigore è Courtois, lui. Andanovic, protagonisti del weekend. Senti Pier, ma dal campo, dallo stadio, dalla gabina di commento, io una paratona su rigore come quella di Andanovic faccio fatica a ricordarla, perché diciamo sempre che il rigore sbagliato è colpa del rigorista, e vabbè, è normal, è così anche probabilmente anche in questo caso, però ha fatto una parata come forse la migliore dell'anno. Ha fatto una grande parata, poi sappiamo che la dinamica che esiste tra tiratore, quindi tra calciatore del rigore e portiere, una dinamica anche psicologica di sguardi, già semplicemente se spiazzi il portiere avversario e metti il pallone in porta già il problema è risolto, quindi già non essere riusciti a spiazzare il portiere avversario è una, se vuoi, una picca dell'esecuzione. C'è sempre una percentuale secondo me di errore quando ti viene parato un calcio di rigore, però sono d'accordo con te, cioè Arnovic, a parte che è uno specialista clamoroso, ha raggiunto Pagliuca 24 rigori parati, e sono 31 se non sbaglio quelli non segnati, quindi considerando anche pali, traverse e palla fuori, e ha fatto qualcosa di strepitoso, quindi sicuramente insomma appartiene alla categoria dei rigori dove veramente la percentuale di merito del portiere supera probabilmente quella del demerito dell'attaccante. Senti, ma tu te l'aspettavi, Pier, una situazione di questo tipo? Adesso andiamo sul Barcellona, al Barça a gennaio questa rivoluzione, adesso Filippo ci racconta se nel direttivo del pomeriggio verrà cacciato Valverde, chi prenderanno, Suarez che si fa male, starà fuori 4 mesi, quindi altri problemi di mercato, però è un inedito, Pierluigi, una situazione così del Barça. Sì, non me l'aspettavo, e fra l'altro è anche abbastanza poco barcellonista, no? Come, bravo, esatto, come appunto. Tipo di, almeno come Barcellona sempre comunica anche nei momenti difficili comunque una certa serenità, compattezza, che poi magari è una calma apparente, no? Filippo ne sa sicuramente più di me e più di noi, però di solito il Barcellona diciamo è ricordato per altre cose, no? Per il fatto di accettare anche le sconfitte in maniera, tranquilla, serena, di rimpostare magari guardando al suo interno, alla cantera, ai nomi della storia del Barça, la chiave per ripartire. Qui mi sembra che manicomio, stavolta manicomio, stavolta manicomio, Filippo. Eh sì, allora intanto siamo proprio in piena attualità perché stanno arrivando adesso al Camp Nou per fare questa giunta direttiva e teoricamente dovrebbero mandarlo via perché voglio dire, dopo aver passato il weekend a cercare un altro allenatore, se adesso gli dicono no, va bene, tutto a posto, non è successo niente. Abbiamo scherzato. È un attimo debilitato, no, ovviamente Valverde. E no, sono assolutamente d'accordo con voi, infatti qui si parla di un ritorno ai tempi di Gaspard, di Núñez, che noi diciamo abbiamo conosciuto meno, no? Magari si seguiva meno quel Barcellona, erano altri tempi, il Barcellona abbiamo conosciuto noi, di solito le cose sono state fatte sempre con una certa tranquillità, no? E, cioè, il discorso di Valverde è che o lo mandi via dopo Anfield, però adesso è un po' inutile, ci sono ricascati perché hanno questi blackout clamorosi, l'altro giorno, no, hanno dominato la partita, io ero in difficoltà così a raccontare quella partita, la partita con l'Atletico Madrid, assolutamente dominata, bombardati, poteva finire 4-1 e invece hanno perso 3-2 perché in 10 minuti, ecco, hanno avuto questo crollo psicologico. È chiaro che l'allenatore può avere una responsabilità in questo senso, però mandarlo via adesso non mi sembra proprio la migliore, soprattutto perché non ci sono grandi alternative, perché per ora hanno preso 3 no. Anche lì hanno preso 3 no, diciamo? Ronald Koeman e Robert Martinez. Ecco. E adesso poi i nomi che si fanno sono tanti, c'è una giostra incredibile, cioè per dire uno dei più plausibili è Pochettino, che è il simbolo delle spagnole e anche poi sempre stato abbastanza vicino, che è anche quello che ha detto Barcellona mai, però una roba, esatto, del genere l'ha detto anche Capello una volta, soprattutto sì. È filosoficamente distante, no? È uno dei nomi filosoficamente distante, anche il fatto che il Barcellona entri in crisi o comunque spalanchi un'ipotesi come quella di un esomero dopo una partita che ha dominato, nel senso che appunto ha detto benissimo Filippo l'altro giorno, il Barcellona è veramente mai schiavi del risultato, prendendo in prestito il striscione della Roma di qualche anno fa, ecco, era quella filosofia lì, mai schiavi del risultato, perché se giochi bene prima o poi i risultati arriveranno, quindi questa invece improvvisa nevrosi è abbastanza sorprendente. No, loro hanno paura della questione psicologica, che sicuramente è presente, no? Perché c'è stata Roma, l'Olimpico, Anfield con Liverpool, adesso Jeddah con l'Atletico, sono diciamo tre indizi, fanno più che una prova, no? La squadra è un po' fragile sicuramente. Poi adesso però, appunto, gli tocca a Napoli, che in questo momento è praticamente insuperabile. Esatto, va bene. Però quello che si rimprovera a Valverde è di giocare poco da Barça. E poi tu cosa fai? Pensi a Pochettino? Cioè la confusione mi sembra sia anche a livello dirigenziale. Infatti gli altri nomi che si fanno è uno è Quique Setién, che è uno invece molto più guardiolista di Guardiola, però con un'esperienza limitata. García Pimienta, che è l'allenatore del Barça B, che è ovviamente zero esperienza, l'ennesimo tentativo, è andata bene al Barça con Guardiola, è andata bene al Madrid con Zidane, però magari ci possono riprovare. Oppure sì, è stato buttato lì anche il nome di Allegri, ma Allegri ha detto che non si muove fino a giugno, e comunque anche lì saremo filosoficamente in un altro calcio. Sì. E quindi mi sembra che comunque in generale, anche solo a pronunciare questi 4-5 nomi, c'è veramente enorme confusione. Sì. Cioè, se tornava Xavi, vabbè, okay, allora c'è soluzione interna, bandiera del, esatto, Barça, come era tutto. Ha fatto, no, il Madrid con Zidane, manda via Benitez, arriva Zidane, benissimo. Però Xavi gli ha detto di no, secondo me anche giustamente, perché poi tanto Xavi sa che prima o poi quella panchina sarà sua. Quindi non c'è nessuna fretta. Non è il momento, aspetto un attimo. Allora facciamo così, intanto saluto Pierluigi che deve andare a tiki-taggeggiare. Esatto. Ci sentiamo domani con te. E con Italia 1 stasera. Italia 1 ore? Qua ogni tanto. 23:20. Vabbè, metto la sveglia, faccio la penna da prima. Allora, ci fermiamo per il traffico, ma Filippo me lo tengo, perché adesso entriamo nel meandro mercato e Vidal e Suarez che si è fatto male 4 mesi, che arriva al Barcellona e tutte queste altre cose, e anche ascoltatori, 800 24 00 24. Sento parlare di recuperi lampo, ma nessuno ricorda i 77 giorni di Roberto Baggio da un crociato in campo. 77 giorni. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Allora, tra poco Giorgio da Modena, con cui parleremo insieme a Filippo Maria Ricci, che però prima mi chiarirà o proverà a chiarirmi la storia, l'incrocio Vidal. Allora, qual è la situazione attuale, lo stato dell'arte? Perché non ci capisco più niente. No, esatto, adesso non c'è neanche l'allenatore, bisognerà vedere chi è, se cambia l'allenatore e cosa succede. Perché se resta Valverde, Vidal può partire. Okay. Sì, però a me ha sempre fatto un po' ridere questa cosa, permettimi, no? Perché praticamente, diciamo, chi gestisce Vidal dice no, se resta Valverde lui se ne va, però se arrivava Xavi probabilmente avrebbe giocato ancora meno se fosse mai rimasto al Barcellona, perché il problema è che una delle cose che rimproveravano, che continuano a rimproverare a Valverde, è l'utilizzo di Vidal come simbolo di un gioco contrario a quello del Barcellona. Per cui se arriva Xavi che ha le sacre tavole, no, del tiki-taka, probabilmente Vidal il campo non l'avrebbe mai visto, quindi sì, secondo me il problema non era Vidal, cioè non era Valverde. Comunque adesso vediamo chi è, se cambia l'allenatore, chi arriva, e poi si prenderà una decisione. C'è ancora tempo, no? Si sapeva che tutto sarebbe dipeso dalla Supercoppa, infatti è così, e aspettiamo. Aspettiamo, quindi rimane questo lì, aspettiamo. In sospeso. Ma tu dovessi dare uno straccio di percentuale? Ma io, lui vuole andare via, e il giocatore è sempre la cosa più importante. L'Inter lo vuole, per cui mi sembra, no, ci sono due condizioni su tre, però bisogna ricordare che comunque il Barcellona ha già dato in prestito a Legnà, e non è che proprio abbia tutti questi giocatori, per cui magari se si impuntano riescono a tenerlo, facendogli, non so, magari anche facendogli pensare che potrà giocare di più, e può succedere, perché poi comunque... Vabbè, Vidal, poi d'altra parte, se Barcellona dice no, se Barcellona dice niente, no, non ve lo do, Vidal può mettersi d'accordo con l'Inter finché vuole, all'Inter non ci, esatto, va, quindi questo rimane lì. Perché poi c'è quell'altro intreccio di mercato, ne hai scritto oggi, ad esempio, ho letto il tuo pezzo sul sito della, sì, della Gazzetta. Allora, Suarez si fa male, sta fuori 4 mesi, quindi praticamente stagione finita. Una cosa voglio mettere, cioè, questo ha giocato contro l'Atletico tutta la partita, cioè è andato a farsi un'artroscopia, così come se fosse un controllo, si parlava di 4 settimane, sono diventate 4 mesi, cioè anche lì, cioè, c'è anche lì una certa confusione, cioè, era in campo l'altro giorno, quando era giovedì sera, sì, ha fatto tutta la partita. Comunque 4 mesi, ha partecipato al 41% dei gol del Barcellona, quindi un'assenza non da poco. E quindi serve un attaccante, e se quell'attaccante fosse Gabigol, come scrivi tu? Sì, cioè adesso questo è uno dei, anche lì un sacco di nomi, e ricordiamoci che l'anno scorso ci avevano già provato, no? Hanno preso Boateng e gli è andata decisamente male, non ci hanno ricavato niente. Adesso l'idea, cioè le ipotesi sono due: o prendono una vecchia volpe, appunto alla Boateng, cioè, si parla di Stuani, Carlos Vela, insomma gente così, che magari la prendi per 6 mesi, oppure prendi uno che in prospettiva, che magari avresti preso a giugno e lo fai arrivare prima. il nome ovviamente più importante qui è Lautaro Martinez, però no, non vedo l'Inter privarsi nemmeno di io. Due giocatori migliori, no, anche no? Perché sennò però, Conte veramente Conte esatto, si butta dal pirellone, si dimette, esatto, forse viene a allenare il Barcellona, esatto, sì, sì. Può essere un incrocio interessante. Vidal viene a Milano, Conte esatto, e Lautaro vengono a Barcellona, sì. Va bene, quindi detto questo, allora Gabigol è comunque è uscito clamorosamente rafforzato, no? dal 2019 ha fatto una grandissima stagione col Flamengo e potrebbe essere l'Inter, no? Tra l'altro, dovendosi poi sedere magari una trattativa con l'Inter per Vidal, si può mettere in mezzo il nome di Gabigol, e questo mi sembra plausibile. Poi siamo ancora Dani Olmo, un altro dei nomi che si fanno, però è più per giugno. O se no c'è il Cimi Avila dello Osasuna, giocatore promettente, che potrebbe essere un altro che potrebbe arrivare a fare morale, morale. Poi mandiamo un messaggio a Marotta con l'Iban perché gli diamo un sacco di consigli per il mercato creativo. Facciamo così. Giorgio da Modena, corrispondiamo insieme e poi salutiamo tutta la compagnia. Buongiorno. Buongiorno, volevo parlare di VAR se possibile. Certo, può parlare di quello che vuole. Grazie. Niente, volevo dire, l'altra sera, no, sabato sera, fallo a 3 metri dalla porta di Lautaro su Toloi, sì. Non c'è rigore e non si va a vedere la VAR, quindi non c'è nemmeno l'esclusione. Ieri sera Dybala a 5, 6, 7 metri da posizione centrale dalla porta viene tirato giù, l'avversario viene ammonito. Un mese fa Cuadrado a 40 metri in posizione defilata fa fallo su Lazzari, occasione da gol, Cuadrado espulso. Secondo voi c'è qualcosa che non va? Lei, secondo lei? Secondo me sì. Che cosa? Decisamente. Cioè? Non lo so, c'è più che altro di media, non ne parla. Fosse successo quello che Lautaro, il fallo di Lautaro, supponiamo l'avesse fatto De Ligt, secondo me saremmo qui a parlare in una trasmissione intera. A dire la verità, come la stessa cosa Zaniolo De Miral, per carità, sono dispiaciutissimo che Zaniolo si è fatto male anche di Miral. Ho letto di tanta gente ha fatto gli auguri a Zaniolo De Miral, no, fa lo stesso. No, ma Giorgio, non si preoccupi, guarda, almeno da parte nostra, zero complottismo, glielo assicuro. Filippo Maralici, non so, lui è un complottista nato, ma noi no. No, per me se ne è parlato abbastanza di tutti gli episodi, se ne parla pure troppo, dici? Secondo me. Te che dici? Invece la vedo diversamente. Anch'io la vedo un po' diversamente, però sai, ognuno la guarda con gli occhiali del colore che possiede. Grazie Filippo, ti abbraccio. Grazie, ciao. Ciao Filippo Maria Ricci, Claudio Schiattone, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.